decidere il tuo destino. Dietro l'angolo c'è la paura. Noi non morirà, noi non morirà mai. Noi non morirà, noi non morirà mai. Lunga vita di noi, lunga vita di noi. Sarà la fine. Noi non morirà, noi non morirà mai. Noi non morirà, noi non morirà mai. Lunga vita di noi, lunga vita di noi. Abbandonati, non lo puoi fermare, i figli di Allen. Noi non morirà, noi non morirà mai. Noi non morirà, noi non morirà mai. Lunga vita di noi, lunga vita.